GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nell'Isontino migliaia di pazienti sono stati dirottati in ambulatori con medici a rotazione, cosiddetti ASAP. Nonostante 4 nuove assunzioni di medici di base, il sistema è in difficoltà. La seconda commissione del Consiglio regionale si è riunita a Lignano per fare il punto sul riconoscimento dello status di città balneare ed è stata l'occasione per un confronto fra i rappresentanti della rete G20 Spiagge, che riunisce le 20 destinazioni balneari più importanti del paese. Case green, dopo l'approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva che impone dal 2040 lo stop alle caldaie a gas, cercheremo di capire quali sono gli scenari che si prevedono anche nella nostra regione. Ricorre oggi la giornata mondiale del rene. In regione nel 2021 si contavano 1800 persone in terapia sostitutiva e si stima che i malati nefrologici, nella maggior parte dei casi over 65, siano all'incirca il 10% della popolazione. Anche in Friuli Venezia Giulia l'iniziativa di Emergency per garantire i pasti ai degenti degli ospedali in Medio Oriente e in Africa per sostenerli nel processo di guarigione. Tra i 100 giovani leader della classifica stilata dalla nota rivista Forbes c'è anche una giovane ricercatrice friulana premiata nella categoria Impatto Sociale. Decine di studenti provenienti da 13 scuole superiori della regione riuniti a Trieste al magazzino 26 del Porto Vecchio per la gara regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze 2024. Si celebra oggi il P-Day, la giornata mondiale del Pi greco. Per l'occasione l'Università di Udine organizza una serie di attività rivolte agli studenti delle scuole e alla cittadinanza per promuovere un approccio coinvolgente e piacevole alla matematica. Le 12:32 minuti, ancora un buongiorno da Giorgio Beerz e Maria Spezia per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 14 marzo. In apertura parliamo dunque dei 34 medici di base in meno negli ultimi 4 anni. Succede nell'Isontino, dove migliaia di pazienti sono stati dirottati in ambulatori con medici a rotazione, i cosiddetti ASAP. E nonostante 4 nuove assunzioni di medici di base, il sistema si trova in difficoltà. Ieri una partecipata manifestazione cittadina. Sono scesi in piazza, hanno manifestato davanti al municipio cittadini, sindacati, forze politiche e medici in difesa della sanità pubblica ieri pomeriggio davanti al municipio di Gorizia. Oltre 3.000 persone, secondo il coordinamento Salute Friuli Venezia Giulia, che raggruppa diverse associazioni, sono senza medico di base a Gorizia, o meglio, vengono assistiti dai cosiddetti ASAP, ambulatori nati in modo provvisorio per rispondere alla carenza di medici di famiglia, in cui ruotano giovani medici, spesso neolaureati. Il sistema però ormai è diventato strutturale, specie nell'Isontino. Solo a Gorizia sono 3 gli ASAP presenti. In piazza anche un medico da poco in pensione, Adriana Fasiolo. Ha lasciato il suo studio con 1500 pazienti ad agosto. Dottoressa, dove sono ora i suoi pazienti? Da chi sono assistiti? Ma prevalentemente dall'ASAP, appunto, dall'ambulatorio sperimentale di assistenza primaria. E come va? Ma sicuramente c'è un malcontento forte da parte dei cittadini, non certo per i giovani colleghi, e anzi ben vengano questi giovani colleghi che si mettono a disposizione, ma perché in realtà manca l'attrattività della medicina generale, perché lo vediamo anche nel corso di specializzazione che quest'anno ha dato come disponibilità ben 58 posti, ma solamente oggi meno di 20 colleghi partecipano al corso stesso. Quindi l'attrattività è l'elemento fulcro, è il problema principale. Asugi, da noi contattata, sta lavorando per attrarre nuovi medici, una merce rara, lo sappiamo. 3 sono appena stati assunti con contratti temporanei, 2 a Gorizia, 1 a Cormons, 1/4 verrà assunto a breve. L'azienda garantisce lo studio, l'assistenza tecnologica, si sta lavorando anche per garantire l'assistenza di segreteria. Basta questo per attrarre? Ma Asugi ha risposto a una nostra richiesta come FIMG, sicuramente, però questo non basta, perché l'attrattività deve essere affrontata strutturalmente a livello regionale, anche attraverso la telemedicina e la diagnostica di primo livello. Gorizia, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La seconda commissione del Consiglio regionale si è riunita nella sala consiliare di Lignano Sabbiadoro per dialogare con la sindaca Laura Giorgi sulle azioni avviate per ottenere dal governo il riconoscimento dello status di città balneare. È stata anche l'occasione per un tavolo di confronto a cui hanno partecipato alcuni dei sindaci aderenti alla rete G20 Spiagge, che riunisce le 20 destinazioni balneari più importanti del paese. Sono 20 comuni, piccoli ma grandi, hanno mediamente meno di 15.000 residenti e allo stesso tempo oltre 1 milione di presenze turistiche. Le città con queste caratteristiche sono riunite nella rete G20 Spiagge Italiane, chiedono il riconoscimento dello status di comunità marine e per raggiungere questo obiettivo stanno mettendo a punto una proposta di legge da presentare presto in Parlamento. Del gruppo fanno parte Grado e Lignano Sabbia d'Oro, che ha ospitato il municipio e la seconda commissione del Consiglio regionale a cui si sono uniti il presidente dell'Aula Mauro Bordini e l'assessore alle attività produttive Sergio Bini. Questi comuni reclamano ulteriori funzioni e adeguate risorse finanziarie perché la normativa attualmente fa riferimento sostanzialmente al numero di residenti, un parametro che per questo tipo di realtà appare limitato. La maggiore pressione turistica, il rapporto cioè tra presenze e residenti, ce l'ha proprio Lignano, conti alla mano. A fronte di meno di 7.000 abitanti sono 55.000 le presenze medie annue stimate sul numero di telefoni agganciati alle celle, con il picco nella stagione estiva che raggiunge le 180.000 presenze. Altra cosa che queste amministrazioni hanno in comune è il tema delle concessioni balneari, la richiesta al governo e al Parlamento di dare certezza legislativa dopo anni di proroghe e sentenze della magistratura. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E occupiamoci ora delle case green. Dopo l'approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva che impone dal 2040 lo stop alle caldaie a gas, cerchiamo allora di scoprire quali scenari si possono aprire anche nella nostra regione. Tutti d'accordo sull'obiettivo della direttiva europea sulle case green, ma ora ci si interroga come arrivarci. Positivo il giudizio dei costruttori, al di là delle rigide scadenze, va vista come un'opportunità di lavoro e investimento per le imprese, afferma il friulano Piero Petrucco, vicepresidente di ANCE Nazionale, che prospetta nei prossimi 10 anni un ritmo molto elevato di ristrutturazioni, di gran lunga superiore a quello compiuto in soli 2 anni col superbonus, che già in Friuli Venezia Giulia ha portato alla riqualificazione del 6% degli edifici. Chiuso quel capitolo, bene per Petrucco la libertà lasciata ai territori su come raggiungere gli obiettivi europei, ma ora è necessario, dice, che governo e associazioni di categoria, anche dei proprietari, trovino misure di agevolazione fiscale in favore di chi non può sostenere i costi di ristrutturazione, senza impattare però sulla finanza pubblica come col superbonus. Sulla stessa linea il presidente regionale dei costruttori, Marco Bertuzzo, che tra le opzioni possibili indica lo sconto in fattura e un sistema di incentivi in base alle fasce di reddito e richiama al contempo la necessità di partire subito per scongiurare il rischio di bolle speculative, imprese improvvisate e frodi, come nel caso del 110%. Bene per ANCE anche l'esclusione dai richiesti interventi di efficientamento del patrimonio immobiliare storico-artistico e delle seconde case. L'attenzione si concentra sull'80% degli immobili, che in Italia e anche in regione è in mano ai privati. Stando agli ultimi dati disponibili del Sistema Nazionale degli APE, aggiornati all'11 marzo, il 47,7% degli oltre 5 milioni di attestati di classe energetica rilasciati in Friuli Venezia Giulia fotografa edifici nelle classi peggiori F e G. Considera intanto la direttiva europea troppo gravosa per il privato il presidente provinciale dell'Unione Piccoli Proprietari di Pordenone, Ladislao Kowalski, che critica anche il non aver tenuto conto delle differenze territoriali e climatologiche dei diversi paesi. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla cronaca. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Trieste a carico di un cittadino italiano di 46 anni, residente sull'altopiano carsico, dopo che l'uomo, già indagato per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata e colpito da divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dalla donna, aveva violato le prescrizioni avvicinandola in un parcheggio e recandosi più volte sul posto di lavoro della donna, chiedendo anche al suo datore di lavoro di intercedere affinché la donna ritirasse la querela sporta nei suoi confronti. Il giudice per le indagini preliminari, preso atto che la misura disposta in precedenza si era rivelata inefficace, ha disposto quindi per l'uomo il trasferimento e la detenzione nel carcere del Coroneo. Ed ora la situazione del meteo. Il cielo è sereno su pianura e costa, con nuvolosità più consistente presente in montagna. Queste le temperature registrate poco fa: a Trieste 12 gradi e 5 decimi, a Udine 14 gradi e 5 decimi, a Pordenone 13 gradi e mezzo, a Gorizia 16 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 10 gradi e mezzo, a Tolmezzo 12 gradi, a Piancavallo e Sappada 8 gradi, a Tervisio 13, sul Monte Lussari 4 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 8 gradi, sulla costa a Grado 12 gradi e a Lignano 13. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi pomeriggio: cielo da variabile a nuvoloso con nuvolosità più consistente sulla fascia prealpina, marcata escursione termica giornaliera. Per domani al mattino cielo in genere nuvoloso ma con nuvolosità meno consistente verso la costa, dal pomeriggio cielo coperto, zero termico a 2500 metri circa. Ricorre oggi la giornata mondiale del rene. In regione nel 2021 si contavano 1800 persone in terapia sostitutiva e si stima che i malati nefrologici, nella maggior parte dei casi over 65, siano all'incirca il 10% della popolazione. E questa giornata mondiale del rene è anche un'occasione per accendere i riflettori sulle patologie renali per le quali spesso non si fa sufficiente prevenzione. Ne abbiamo parlato col primario della nefrologia e dialisi dell'ospedale maggiore di Trieste, il dottor Vittorio Di Maso. Sentiamo. Le malattie renali sono un ampio corollario di patologie, vanno dalle malattie rare, genetiche, congenite, alle malattie immunomediate, alle malattie secondarie rispetto ad altre patologie che poi danneggiano il rene. Le malattie renali sono anche malattie acute che magari insorgono all'improvviso in un contesto ospedaliero, come può essere per esempio in una terapia intensiva, richiedono dialisi transitoriamente. E poi possono anche risolversi, ma il grande cappello che le raccoglie quando queste non rispondono alle terapie o evolvono è la malattia renale cronica, che sicuramente colpisce una fetta importante di popolazione, circa il 10% di quella mondiale. In Italia la prevalenza è un po' inferiore al 10%, 3-4 milioni di persone sono affette da malattia renale cronica, che però è una malattia subdola e alcuni pazienti non vengono diagnosticati appunto perché tende ad evolvere senza dare sintomi e segni particolarmente evidenti. Di questi, una fetta arriva a una malattia renale avanzata, dove c'è bisogno di intervenire con processi terapeutici avanzati, la dialisi, il trapianto. In Italia questi sono circa 100.000. I dati regionali sono in linea più o meno con questi nazionali. A Trieste seguiamo circa 300 pazienti che richiedono la sostituzione di funzione renale. Quali sono i fattori di rischio? Di solito sono pazienti ipertesi, diabetici, che abbiano patologie cardiovascolari. Questi sono i principali fattori di rischio, assieme ovviamente all'obesità o ad altre patologie sistemiche che possono impattare o avere un ruolo nello sviluppo della malattia renale. Come si fa prevenzione? Con semplici esami del sangue, ad esempio valutando i livelli di creatinina, oppure con un esame urine. Magari nei contesti dove i pazienti vengono seguiti, dal medico di medicina generale agli altri specialisti, cardiologi, diabetologi, che magari seguono il paziente per altre ragioni. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Conf Cooperative Friuli Venezia Giulia ha assegnato il premio regionale sostenibilità ad Andrea Segre, triestino, docente di economia circolare e politiche per lo sviluppo sostenibile all'Università di Bologna. Il riconoscimento gli sarà consegnato sabato a Gorizia, nel polo dell'Università di Trieste, durante l'assemblea regionale elettiva dell'organo, che provvederà anche al rinnovamento delle cariche sociali e del presidente, a cui parteciperanno 120 delegati e decine di ospiti da tutta la regione. Nell'occasione saranno assegnati anche 3 premi a studenti di scuole di Staranzano, Udine e Cervignano del Friuli. E ora parliamo di un'iniziativa prevista anche nella nostra regione per garantire i pasti ai degenti degli ospedali di Emergency in Medio Oriente e in Africa e per sostenerli nel processo di guarigione. Emergency raccoglie fondi per garantire i pasti ai degenti nei suoi ospedali in Medio Oriente e Africa, così da sostenerli nel processo di guarigione. Torna quindi l'iniziativa 100 cene per la pace. 2 di queste cene saranno proprio a Trieste e Udine. Raul Pantaleo, architetto e da 20 anni membro del Consiglio Direttivo Nazionale di Emergency. Abbiamo avuto un grosso successo, forse anche un po' il bisogno di partecipare anche per reagire all'impotenza di questa situazione drammatica della guerra. Ricordiamo che soprattutto nei paesi in povertà normalmente gli ospedali non servono i pasti, per cui dare un pasto gratuito per molti è forse l'unico pasto che riescono ad avere in un'intera giornata. Assediati dai conflitti in Europa, Medio Oriente e Africa, abbiamo rotto il tabù sulla guerra. Dobbiamo entrare nella mente delle persone e provare a creare questo tabù sul fatto che la soluzione ai problemi non è necessariamente la guerra, che bisogna provare delle vie diplomatiche, altre vie. Oltre agli ospedali chirurgici in Iraq e Afghanistan e in 4 stati africani, Emergency ha anche una nave che solca il Mar Mediterraneo per la ricerca e il soccorso in mare delle persone migranti. I volontari di Emergency sono attivi anche in Italia, con progetti in Lombardia, in Sicilia, Campania, Calabria e da 14 anni anche a Marghera, con un ambulatorio per gli indigenti. Emergency, consapevole della disumana condizione dei giovani rifugiati al Silos di Trieste, è a disposizione delle istituzioni. Credo che sia disumana la situazione in cui vivono queste persone. Bisogna intervenire, è previsto dalla nostra Costituzione. Le cene sono già prenotate, ma chi volesse contribuire donando il proprio tempo, contatti i gruppi di volontari presenti numerosi in tutta la regione. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra i 100 giovani leader della classifica stilata dalla nota rivista Forbes c'è anche una giovane ricercatrice friulana premiata nella categoria Impatto Sociale. Elena Del Pup, pordenonese, 25 anni, è entrata nella classifica Forbes dei giovani leader del futuro 2024, un nuovo traguardo per la ricercatrice friulana che era stata selezionata per la Clinton Global Initiative con la sua piattaforma The Good Scientists, startup civica che connette ricercatori con progetti di impatto sociale e ambientale. Nella ricerca, specialmente nel mio ambito, quindi quello dell'ambito agricolo e ambientale, ci sono tantissime innovazioni che potrebbero avere grande rilevanza a livello globale per obiettivi di sostenibilità, ma troppo spesso vedo poche collaborazioni tra il mondo della ricerca e quello dell'impatto globale, del mondo dello sviluppo globale, e vedo molte più collaborazioni con il mondo dell'industria. Credo che ci siano quindi grosse potenzialità di creare ponti tra mondi che attualmente non stanno collaborando in maniera sufficiente. Del Pup sta svolgendo un dottorato in bioinformatica nei Paesi Bassi, dove utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare la sintesi di nuove molecole in campo farmaceutico e agroalimentare. Qual è il tuo obiettivo per il futuro? Connettere questi campi di alta innovazione tecnologica con il mondo dell'impatto sociale, non solo tramite le non profit e le ONG, ma anche sicuramente coinvolgendo l'industria. Un consiglio per i giovani studenti? Di ampliare i propri orizzonti. Direi che al momento vedo che nei profili tecnici vengono apprezzate anche competenze che sono molto, molto interdisciplinari, quindi di lasciarsi ispirare dall'interdisciplinarietà. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E sono 40 gli studenti da 13 scuole superiori della regione riuniti a Trieste al magazzino 26 del Porto Vecchio per la gara regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze 2024. Alla finale nazionale del 17-18 maggio a Roma sarà selezionato il vincitore italiano che parteciperà alla competizione internazionale. È un cruciverba da risolvere in 20 minuti, la prima prova delle Olimpiadi delle Neuroscienze. Quest'anno a sfidarsi per la gara regionale, organizzata dall'immaginario scientifico, dal Comune e dall'Università di Trieste al magazzino 26 del Porto Vecchio, sono stati 39 ragazzi provenienti da 13 scuole di tutto il Friuli Venezia Giulia. Come ci si prepara per fare questa gara? Beh, sicuro bisogna, diciamo, leggere e informarsi su, anche grazie al materiale che è fornito sia dall'Università di Trieste. È difficile prepararsi per una gara del genere? Ci vuole molto impegno, bisogna imparare le varie parti del cervello, studiare le malattie, il funzionamento. La vincitrice o il vincitore accederà alle finali nazionali che si disputeranno a Roma il 17-18 maggio, un'avventura che qualcuno ha già vissuto. È un'esperienza interessante e formativa sia per me, per il mio percorso formativo e per la mia persona, insomma. Un ambito, quello delle neuroscienze, che grazie alla sua multidisciplinarietà attira sempre più i giovani. Paola Lorenzon, neurofisiologa dell'Università di Trieste. Il nostro obiettivo è cercare di coinvolgerli il più possibile in un ambito che comunque è di interesse anche sociale, nel senso che le malattie neurodegenerative sicuramente hanno un impatto sulla popolazione in generale. E devo dire che i ragazzi rispondono molto, molto bene. E in questo campo di studi così vasto, ciascuno può trovare gli aspetti che lo affascinano di più. La ricerca sull'apprendimento e anche sulle malattie, come curare le malattie appunto legate alle degenerazioni, ecco, del sistema nervoso. Mi piace molto quando si tratta, insomma, della fisiologia, insomma, del cervello. Ne abbiamo parlato molto a scuola. Trieste, Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. Per promuovere un approccio coinvolgente e piacevole alla matematica si celebra oggi il Pi Day, la giornata mondiale del Pi greco. Come ogni anno, in questa occasione l'Università di Udine con l'associazione Matesis organizza una serie di attività rivolte agli studenti delle scuole e alla cittadinanza negli spazi della biblioteca scientifica. Il 14 marzo si celebra la giornata mondiale del Pi greco, il Pi Day, nei paesi anglosassoni identificato con la forma 3.14. Come ogni anno, in questa occasione l'Università di Udine con l'associazione Matesis ha organizzato una serie di attività rivolte agli studenti delle scuole e alla cittadinanza, un modo per avvicinare i giovani alla matematica. Stefano Urbinati, Università di Udine. La parte divulgativa della matematica è sempre complicata, e è bene riuscire a inquadrarle in un modo che sia facilmente leggibile da tutti, quindi associare una data a un giorno matematico secondo me è importante, è bello perché facilita insomma questo collegamento. Gli allievi del Copernico Marinelli dell'Istituto Malignano hanno presentato agli allievi delle scuole secondarie di primo grado un percorso tematico di matematica. Luna Peressutti del Malignani. Abbiamo lavorato su dei laboratori da proporre ai più piccoli e ai più giovani per diffondere la nostra idea di matematica, che è effettivamente mettere le mani in pasta, giocare, fare laboratorio e riuscire ad applicare quello che impariamo da una lezione frontale nella pratica e nella vita di tutti i giorni, giocando e divertendoci. Simone Coppetti del Copernico. È un'esperienza unica perché permette a loro di capire veramente il fascino che ha la matematica in questo caso e poterla imparare da un ragazzo che ha pochi anni più di lui o di lei è un'opportunità unica perché permette di capire in modo proprio speciale questa materia. Gli incontri laboratori proseguiranno nel pomeriggio per concludersi venerdì alle 17 all'Istituto Malignani, dove Maurizio Trombetta parlerà delle funzioni periodiche, proprietà, note e meno note. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport basket. La Udine recupera questa sera al Pala Carnera l'incontro della terza giornata della fase orologio di A2 contro la Luis Roma. Tutti a disposizione i giocatori del roster per il coach dei friulani Vertemati. Inizio della gara alle 20:30. Passiamo al biathlon. Ultime tre gare di Coppa del Mondo in Canada, Kenmore. Si comincia alle 17:40, ora italiana, con la sprint sui 7,5 km. La sappadina Lisa Vitozzi, che partirà con il pettorale 18, deve recuperare un distacco considerevole di 73 punti dalla leader della classifica generale, la norvegese Ingrid Thandrevold, e nel contempo difendere il secondo posto nella Coppa del Mondo. E ora alcuni appuntamenti in regione per gli spettacoli. Gabriele Lavia è regista e interprete della commedia di Carlo Goldoni, Un curioso accidente, in scena a Trieste al Politeama Rossetti alle 20:30. La commedia goldoniana Il giocatore, con la regia e l'adattamento di Roberto Valerio, sarà rappresentata a Trieste al Teatro Bobbio alle 20:30. Solo quando lavoro sono felice è lo spettacolo teatrale in cui sono protagonisti Nicolò Fettarappa e Lorenzo Maragoni, Atlatisana, al Teatro Odeon alle 20:45. Il regista Paolo Virzì e l'attrice Anna Ferraioli Ravel presenteranno la loro nuova pellicola Un altro Ferragosto a Udine al Cinema Centrale alle 19 e a Pordenone al Cinema Zero alle 21, a cui interverranno dopo la proiezione. L'anteprima della 20ª edizione della rassegna La scena delle donne prosegue con il monologo di Lucia Raffaella Mariani, intitolato Frivola, confessione sull'insostenibile bisogno di ammirazione, a Pordenone, allo spazio Capitol, alle 20:45. Per la musica, il saxofonista di fama internazionale Valentin Kovalev si esibirà in concerto con il Satin Saxophone Quartet a Colonia di Tavagnacco, al Teatro Bona, alle 20:45. In programma musiche di Tchaikovsky, Piazzolla e Bartok. L'orchestra d'archi Cremerata Baltica, composta da 24 giovani elementi provenienti da Lettonia, Lituania ed Estonia, proporrà un concerto di musiche di Chopin e Penderecki a Udine al Teatro Nuovo alle 20:30. L'organista Giulia Biagetti si esibirà nella cornice della rassegna Serate d'organo in musiche di Johann Sebastian Bach e Johann Gottfried Walter a Udine, nella parrocchia di San Quirino in via Gemona alle 20:45. E alle 12:54 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Beerz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cuminga, collaborato in redazione Laura Sarasini. Grazie dell'attenzione, prossimo appuntamento con il GR delle 15. A tutti, buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.